Buongiorno a tutti da Antonio Pavolini e benvenuti al 28esimo numero di Conversational, la rubrica di Radio Popolare Roma dedicata alla rivoluzione dei social media. È stata un'epoca felice in cui le aziende si facevano concorrenza in base alle professionalità e le competenze che avevano al loro interno. Erano i tempi in cui si diceva: se assumi il massimo esperto in materia e gli metti a disposizione gli strumenti per produrre valore, diventi competitivo quantomeno nella cosiddetta economia della conoscenza. Ma che succede se tutti possono accedere alla conoscenza di tutti? Il crowdsourcing è una illusione o una rivoluzione? Ne parliamo tra pochissimo. For the entirety of human history, the crowd was dependent on proximity. We had to be together physically in order to create a crowd. Suddenly, with the internet, we were able to create a virtual crowd. And what this allowed is it allowed people to get together through intent, through shared interest. This is new. This is a fundamentally new development in the course of human history, that communities are able to form simply out of shared interest, shared passion for a hobby, a craft, an art. So crowdsourcing is when a company takes a job that was once performed by employees and outsources it in the form of an open call to a large, undefined group of people, generally using the internet. There's a couple crucial terms in there. One is open call and the other is undefined. And they both get the same idea, that the person who you think would be best qualified to perform a job isn't always the best person to do it. And the cocktail party version is very simple. It's crowdsourcing is Wikipedia with everything. Wikipedia per qualsiasi scoperta, per qualsiasi conoscenza, in qualsiasi ambito della nostra vita. Questa è una, forse una banalizzazione, una semplificazione, però non possiamo sottovalutarla, perché una, diciamo così, sintesi estrema della definizione di crowdsourcing da parte della persona che ha inventato il termine crowdsourcing, che abbiamo sentito poco fa e che si chiama Jeff Howie, un giornalista, uno di questi dall'area un po' messianica che appaiono sui video di YouTube ogni tanto. Parliamo di questo fenomeno, cerchiamo di smontarlo laddove deve essere smontato, ma anche di giustamente esaltarlo laddove ha dato dei risultati, e lo facciamo in studio intanto con Luca Alagna. Ciao Luca. Buongiorno Antonio. Allora, Luca Alagna, che convochiamo quasi sempre qui quando c'è da dire qualcosa di un po' più ampio, perché è un esperto di social media, direi ad ampio raggio. E sei anche, diciamolo, sei un co-worker, sei una persona che in qualche misura già esercita il crowdsourcing nel tuo lavoro, è corretto Luca? Abbastanza, cioè in realtà poi il crowdsourcing si esprime nel rapporto tra un gruppo di persone, tra una comunità e un determinato risultato che si vuole raggiungere. Nel mio caso parlerei di lavoro classico a network, a rete. Si avvicina in realtà poi, insomma, un pochino come discorso, perché poi naturalmente le risorse vengono prese anche all'interno della rete e anche tra persone che hanno rapporti di rete con te, quindi in un certo senso c'è questa cosa. Ecco, quando per la prima volta si cominciò a sentir parlare di crowdsourcing, i primi esperimenti, devo dire anche un semifallimentari potremmo dire, ma abbastanza indicativi nel descrivere di che cosa stiamo parlando, furono molto semplici. Ricordate per esempio che a un certo punto fu creato, se non sbaglio, un plugin di Skype. Skype è un servizio, per chi non lo conosce, saranno rimasti in pochi, credo, di telefonia via IP, che permette di parlare in sostanza con qualsiasi persona del mondo tramite internet, anche in video, ormai ci sono le videoconferenze. C'è stato un periodo in cui su Skype era possibile, pagando una certa cifra, tipo, che so, 10 centesimi di dollaro al minuto o poco più, poi c'erano tariffe differenziate, era possibile chiamare dei numeri di persone che su Skype nel loro profilo indicavano la propria competenza verticale e si facevano pagare delle cifre abbastanza irrisorie, se pensiamo a quelli che sono gli hourly rate degli avvocati di oggi, no, quando li chiami per telefono. Però molto rapidamente, senza passare attraverso le forche caudine, diciamo, della consulenza professionale tradizionale, no, tu riuscivi comunque magari ad avere rapidamente la risposta che volevi. Era più una leva di marketing di Skype in quel caso, non funzionò molto bene. Poi però apparve un'altra cosa che si chiama Yahoo Answers. Ne vogliamo parlare rapidamente, Luca? Perché ci sono tante cose un po' buffe che appaiono su Yahoo Answers, però anche alcune interessanti. Yahoo Answers ormai è il cioè del XXI secolo, no? Quella rivista per adolescenti che esisteva negli anni 80-90. E quasi tutti credo che ne abbiano avuto comunque un'esperienza, perché cercando su Google su moltissimi tempi, soprattutto facendo delle domande, esatto, a Google a volte capita di fare delle domande tipo dove la risposta arriva da Yahoo, e a Google non sono molto contenti di questo. No, non credo, ma in ogni caso arriva per motivi non tanto semantici, no, del motore di ricerca, ma quanto, no, di ricerca a forza bruta, cioè effettivamente ti viene fuori la domanda che probabilmente hai digitato. Ma in ogni caso questo servizio è un servizio riservato agli iscritti, no, al portale Yahoo, e in particolare a questo servizio, che decidono di rispondersi vicendevolmente su alcuni temi e di votare queste risposte e far sì anche che chi ha posto la domanda possa anche scegliere la migliore e dire questa è la risposta secondo me migliore su molti temi. Naturalmente questo nasce con tutte le buone intenzioni, poi naturalmente come accade spesso naturalmente sono venute fuori le domande, insomma, più assurde, e addirittura è diventato un modo per a sua volta per comunicare, cioè a volte vengono inviati dei metamessaggi, cioè sì, sono domande puramente retoriche per poter affermare, cioè, qualcosa. Per intenderci, su Yahoo Answers non c'è stato quella capacità di autocontrollo e automiglioramento che invece riscontriamo in un altro grande storico esempio di crowdsourcing, che è Wikipedia. Secondo te Wikipedia rappresenta un esempio valido di crowdsourcing? Sicuramente sì, è l'esempio anche più vasto di crowdsourcing, e anche quello più controverso in assoluto, no? Insomma, la polemica è all'ordine del giorno tra chi sostiene l'enciclopedia classica, come appunto Umberto Eco, e chi invece diciamo dice che questa è comunque qualcosa di positivo. Io appartengo a quest'ultima schiera. Sicuramente è un aspetto positivo, anche perché bisogna vederla non con il senso classico di enciclopedia, ma come un nuovo modo di raccogliere l'informazione, e che non è esattamente come ci possiamo aspettare rispetto a prima. E poi c'è anche un equivoco di fondo, cioè sembra quasi che un'eventuale vittoria del modello che punta sulla folla piuttosto che su un gruppo di esperti selezionati determini automaticamente la sparizione del vecchio metodo. In sostanza, se Wikipedia diventa la cosa che naturalmente tutti facciamo quando andiamo su internet e cerchiamo una definizione in stile enciclopedico, no? Lo facciamo direi ormai con un riflesso, però non significa che chi ha sempre usato la Treccani o l'Oxford Dictionary non userà più questi vecchi strumenti. È solo uno strumento in più, e quindi è sospetta la reazione, diciamo così, del vecchio mondo, perché se veramente loro avessero queste competenze non duplicabili, eccetera, non avrebbero nulla da temere, non trovi? Io la chiamerei la sindrome della sostituzione, no? Ormai in tutto. I giornali moriranno, rimarranno soltanto gli iPad. E qualsiasi cosa morirà e rimarrà soltanto... No, non muore nulla, in realtà, no, vengono, come si dice proprio in gergo molto tecnico, remediati. Sì, sì. Cioè vengono rimediati. Col trattino. Tra l'altro ci sono anche degli, come dire, il crowdsourcing gode a un certo punto anche di una brutta stampa, nel senso che dopo che se ne è parlato, sono usciti gli articoli su Nova, su Wired, eccetera, si è creata automaticamente un'area di consenso per gli scettici, come sempre accade. Sono stati citati degli esempi che secondo me non hanno molto a che fare col crowdsourcing. Pensiamo per esempio alla situazione raccontata dal direttore di Current TV, che è una situazione vera. Tommaso Tessarolo a un certo punto lamentò pubblicamente il fatto che l'esperimento di puntare su tutti questi videomaker sparsi nel territorio, che sarebbero stati premiati se rispettavano certi requisiti, eccetera, è fallito perché il lavoro di editing su questo materiale che arrivava dalla folla era addirittura più oneroso rispetto al produrre in proprio certe inchieste, eccetera. Quindi l'idea del video distribuito che faceva affidamento su questo talento disseminato in giro per l'Italia non è andata in porto. Però in questo caso io francamente non parlerei di crowdsourcing, perché non si tratta di competenze verticali che hanno delle risposte, si tratta semplicemente di un requisito fissato, diciamo, fin dall'inizio da qualcuno che ha in mano delle leve, cioè in questo caso il broadcaster, eccetera. Se non soddisfa il requisito, evidentemente il problema non è degli altri, perché magari gli altri hanno dei canali dove far viaggiare i loro contenuti. Sì, no, e il grande scontro che noi stiamo vivendo all'inizio del XXI secolo, io lo ripeto sempre, è lo scontro fra la gerarchia e il network. Noi veniamo da un secoli di impostazione gerarchica di tutto, e ci troviamo di fronte a impostazioni a network di cosa? Dei contenuti e di tutte, della conoscenza anche in questo caso. È difficile, molto difficile gestirla, molto difficile anzi anche capire che cosa si sta facendo, e quindi questi piccoli fallimenti possono venire anche da questi aspetti. Cioè è difficile capire, è difficile anche essere un pochino visionari, no? E dire dove mi porterà questa cosa, perché effettivamente sembra il caos puro, no? Forse la cosa difficile è avere le giuste aspettative, e forse una buona idea è come dire, cercare di pensare un po' out of the box, come sono abituati a fare a Google. Lo sapevi che da poche settimane Google Maps, il famoso servizio di mappe, ha aperto negli Stati Uniti una funzionalità, per il momento limitata a titolo, diciamo, di trial sperimentale geografico solo per gli Stati Uniti, dove gli utenti stessi possono inserire dei dettagli nelle mappe americane. Molti hanno visto in questa scelta di Google una risposta a OpenStreetMaps, un progetto di creazione e di miglioramento progressivo delle mappe che nasce esclusivamente dal contributo degli utenti. Facciamoci raccontare la storia di OpenStreetMaps da Simone Cortesi, che fa parte della OpenStreetMap Foundation. Ciao a tutti, siamo con Simone Cortesi per parlare di un progetto molto interessante che si chiama OpenStreetMap. Di cosa si tratta? Ciao, il progetto punta a raccogliere dati geografici collaborativi. Dal basso ogni persona può caricare nel nostro sistema ciò che gli interessa della propria città, dalle fontanelle dell'acqua potabile alla posizione dei parcheggi, alla posizione del municipio. Il concetto che sta alla base del nostro sistema è che chiunque è un esperto della propria zona di residenza e quindi è la massima autorità di quella zona, e quindi è giusto che abbia la possibilità di contribuire la propria conoscenza e caricarla in un database globale al quale tutti possono accedere in maniera gratuita. Il database è un database di vettori e permette a uno sviluppatore di creare visualizzazioni grafiche del dato, da quella orientata ai ciclisti a quella orientata a chi va a fare sci, a quella per chi fa canoa o addirittura recentemente a quella per uno degli sport legati all'orienteering. Ovviamente ci possono essere visualizzazioni particolari legate ad esempio alla realtà aumentata, come ad esempio potrebbe esserci un ipotetico sviluppatore che crea un applicativo per la bicicletta da incastonare nell'un ipotetico occhiale per la realtà aumentata, e il ciclista che gira per la città può vedere tramite dei finti enormi idranti che sputano acqua in cielo la posizione delle fontanelle dell'acqua potabile della città di Milano, ad esempio. Il progetto esiste solo in Italia, quindi ci sono solo dati relativi al paesaggio italiano, o c'è una rete più ampia? Assolutamente no, il progetto è nato in Inghilterra nel 2004. In Germania sono particolarmente focalizzati sul progetto e ci sono degli esempi clamorosi di dati ben realizzati, come ad esempio se provate ad andare a vedere il parco della città di Berlino troverete lo zoo di Berlino con l'indicazione di ogni singola gabbia degli animali, ogni singolo percorso pedonale all'interno del parco dello zoo di Berlino stesso. Direi che c'è la comunità tedesca sicuramente a seguire quella inglese, americana e subito dopo quella italiana e francese. Questo era Simone Cortesi, uno dei volontari della OpenStreetMap Foundation, perché va detto chiaramente ancora, i soldi con queste mappe non si fanno, non credo che le abbiano vendute, che so, al Touring Club italiano. Di fatto però, attenzione, ci sono delle cose, ve lo garantisco, su OpenStreetMap che non si trovano su Google Maps, e invito tutti, per rendersi conto della potenza di queste informazioni distribuite, a fare un giro sul sito, fate una ricerca anche con Google, pur a malincuore Google vi reindirizzerà sul sito di OpenStreetMap. Dovremmo avere intanto in collegamento Nicola Mattina. Ciao Nicola. Ciao. Nicola Mattina, noto soprattutto come blogger, blog.nicolamattina.it, ma anche CEO e fondatore di Elastic, agenzia specializzata in comunicazione online, direi grande esperto anche lui di social media, forse un po' più scettico di noi sul crowdsourcing, o sbaglio Nicola? Ma no, allora sul crowdsourcing come principio no, assolutamente, sulla potenza del crowdsourcing ovviamente no. Oggi io, diciamo, se la guardo anche dal lato aziendale, è un fenomeno in crescita anche sul lato aziendale. Come interesse, l'area che oggi è più impattata, diciamo, che subisce il maggior fascino relativamente al crowdsourcing è quello del customer care, cioè oggi le aziende cominciano a utilizzare i clienti anche per fare assistenza agli altri clienti, cioè si sono accorti che esistono dei clienti particolarmente volenterosi, particolarmente competenti sui propri prodotti, a volte più competenti degli addetti del customer care, che sono disponibili ad aiutare altri clienti quando i loro pari hanno dei problemi, e quindi cominciano in modo strutturale a includere questo tipo di supporto all'interno dei canali. Allora, visto che hai menzionato il customer care, devo fare un credit. L'audio che abbiamo sentito poco fa viene da un video di Vodafone.it che appunto aveva intervistato Simone Cortesi nell'ambito di una serie di video su tecnologie e fenomeni innovativi. Quindi in sostanza le aziende cominciano a sfruttare l'intelligenza distribuita. In fondo succedeva nel mondo del software, che chiaramente è un po' una spia avanzata di questo progresso, già da molti anni con i programmi di beta testing, corretto Nicola? Assolutamente sì, sì, assolutamente sì. Guarda, in realtà il crowdsourcing ha cominciato ad emergere come soluzione, diciamo, collettiva dei problemi nei settori che hanno bisogno di grandissima velocità nel risolvere i problemi, no? Quindi il software sicuramente è stato uno di questi, poi con tutto evidentemente il fenomeno anche legato all'open source, allo sviluppo di programmi fatti da comunità di sviluppatori e via di seguito. Diciamo che la pratica del crowdsourcing, proprio quindi dell'affidare alle folle la realizzazione di qualcosa, quindi anche dargli un nome che ricorda outsourcing, che è una pratica di management aziendale in cui tu affidi a uno esterno un'attività che non vuoi fare tu perché non è della tua nel tuo core business, ecco, in questo caso lo affido ad una massa indistinta di persone che non so esattamente chi siano. È in alcuni settori comincia assolutamente ad essere una esigenza, perché la velocità con cui evolvono alcune fenomeni è troppo elevata rispetto alla capacità di reagire di un'azienda. Allora, quindi... però, non per essere, diciamo, in polemica, però ti voglio un po' stuzzicare. Tu hai detto che la ricerca della conoscenza affidata alle folle avviene necessariamente al di fuori del core business, però io mi permetto di obiettare perché TripAdvisor, per esempio, che si occupa di turismo, cerca conoscenza nell'ambito di un business che magari non sarà il suo, perché il TripAdvisor non è un tour operator, però è l'ambito verticale della community. No, quelli sono, ok, assolutamente, quelli sono business che nascono con un modello di business in cui la produzione viene eseguita in modo distribuito. Assolutamente d'accordo con te. Poi ci sono tutto il mondo dei business tradizionali, in cui ovviamente questo tipo di fenomeno deve essere inserito all'interno di una struttura organizzativa che è fondamentalmente burocratica e che è un sistema chiuso. Senti, le aziende, Nicola, tipicamente sono dei sistemi chiusi. Scusami Nicola se ti interrompo, sono Luca. Ciao caro. Volevo chiederti, ma tu pensi che questi modelli di business di cui appunto stiamo parlando, quindi nuovi modelli di business che si basano sul crowdsourcing, abbiano un futuro, nel senso riescono a raggiungere effettivamente gli obiettivi oppure no? Al momento sì, nel senso che tutti quanti i sistemi, diciamo, per quello che è la nostra conoscenza attuale di questi fenomeni, perché potrei essere smentito tra 5 anni, nel senso che poi magari questi business dimostrano che nel lungo periodo non sono autosostenibili, sì, perché tutti quanti i sistemi in cui c'è una raccomandazione vengono fatti oggi con un sistema di crowdsourcing, cioè tutti quanti i sistemi che prevedono meccanismi di raccomandazione, recensione, in cui si devono raccogliere opinioni su oggetti vengono gestiti in questo modo ed è una parte fondamentale del business di questi sistemi, citato TripAdvisor, ma voglio dire, ci sono ormai tutti i sistemi di prenotazione di alberghi prevedono una componente fortissima gestita in crowdsourcing delle recensioni degli alberghi. Una volta le recensioni delle strutture alberghiere, dei ristoranti, eccetera, le facevano i professionisti. Ecco, io, visto che insomma il tema spinoso delle definizioni in questo caso è fondamentale smarcarlo, vorrei chiuderlo con un divertente audio realizzato da Nicola Bruno per The Blog TV qualche tempo fa, che si intitolava Crowdsourcing, questo sconosciuto. La parola crowdsourcing, secondo me, si riferisce a una tipologia di programmazione? Compro una vocale e giro la ruota? Ok. L'idea è nata da un giornalista americano che per primo ha detto: il mio pubblico è più intelligente di me. Si chiamava Dan Gilmore. Ha fatto una scoperta, insomma, che il suo pubblico su determinati argomenti era complessivamente più intelligente, ne sapeva di più di lui. E quindi si è detto: chiediamolo al nostro pubblico. Ecco, questa era la grande, banale dopo, ma grande scoperta che lui ha fatto. E è una cosa interessante, perché il pubblico da questo momento in poi non è più il ricettore passivo di un messaggio, ma è il protagonista di questo messaggio. È quello che dà significato, che aggiunge conoscenza, e quindi alla fine di questo processo tutti ne guadagnano, insomma. È la rivoluzione del web 2.0. Il pubblico non c'è più, ci sono solo protagonisti. È il motivo per cui si fanno i bar camp, per esempio. Poi me lo devi spiegare, però. Ecco, meno male che Gaspar Torriero alla fine ha messo un po' di ordine, ha messo tutti d'accordo, anche se ha usato ancora questo termine web 2.0, che secondo me forse oggi sarebbe il caso di cominciare a usare, ma che ormai ha una pessima stampa e quindi tutti lo detestano. Corretto, Luca? Guarda, a me Gaspar piace tantissimo perché lo seguo naturalmente e ci leggiamo insomma un pochino, no, sui blog e sui social media. Quando naturalmente vuole fare una domanda, ha bisogno di un'informazione, lo chiede agli altri e quindi inizia la frase con internet, virgola, e fa la domanda. E quella effettivamente è un principio di crowdsourcing, cioè inizia a demandare all'esterno la risoluzione di un suo problema e gli arrivano effettivamente tantissime risposte, spesso molto competenti, spesso da esperti, e spesso il problema può essere in qualche modo affrontato e risolto. Ecco, proviamo a invertire, scusa Nicola, un attimo il discorso. Sì. Dimentichiamoci il crowdsourcing e poniamo l'attenzione sulle aziende. Il web sembra far emergere in tutta la loro gravità tutti i freni, tutte le tare, tutti i blocchi che spesso impediscono all'idea giusta, vincente, all'interno di un'azienda di emergere se tu appunto cerchi l'idea tra le persone che hai assunto al tuo interno, perché ci sono logiche gerarchiche, c'è la paura di innovare, eccetera. Non c'è forse la speranza, adesso al di là dello strumento crowdsourcing, che questo nuovo movimento in qualche modo smuova le acque? Ma sai, allora, un'organizzazione, un'azienda non è fatta per innovare. Ecco, questa è un'affermazione molto forte, perché io non conosco in Italia un'azienda, forse a parte Lior, che dichiari nel suo statuto di non voler innovare. Assolutamente, però il dato di fatto è che le aziende non sono fatte per innovare, le aziende sono fatte per ripetere. Ecco. Cioè un'azienda ripete in modo, cercando il modo ottimo di raggiungere un risultato, che deve essere sempre lo stesso, e ripete quella prestazione migliorando la performance, incrementandola e compagnia bella. Ma l'innovazione in quanto tale all'interno dell'azienda è difficile da nutrire. Quindi un modo per nutrire innovazione, un modo per alimentare innovazione, diciamo che oggi le pratiche di management dicono che l'innovazione si deve coltivare al di fuori delle grandi organizzazioni aziendali e poi va inglobata dentro. Voglio dire, non è un caso che le aziende che innovano veramente e che sono veramente alla ricerca di innovazione hanno un ciclo di acquisizione di aziende piccole continuo. Cioè un'azienda come Google compra una media di un'altra società al mese. Ma non può essere sempre questa la soluzione del mergers e acquisition, Luca. Cioè ci deve essere una via di mezzo tra una scelta societaria o... Ah, la domanda è a me, pensavo ti fossi... Guarda, non, la risposta in realtà non la so, Si arriva sempre in trasmissione a un punto in cui io faccio una domanda a Luca e lui candidamente, per dimostrare che non è vero che dobbiamo sempre dire lo so ed è la risposta è questa. Non lo so, io vorrei dire non si sa, però vorrei cioè che qualcun altro lo sappia. E in realtà la strada che stiamo seguendo in questi ultimi anni, per esempio con queste acquisizioni che fa Google, è la logica conseguenza Del tipo di mercato dei capitali che loro stanno avendo e quindi dello sviluppo questa loro imprenditoria. Però non è detto che questa possa essere l'unica strada. Hai parlato di capitali, Luca, e mi fai l'assist a porta vuota per parlare di una variante del crowdsourcing che si chiama crowdfunding, in sostanza la capacità di ottenere finanziamenti, diciamo così, dalle fonti più distribuite. Negli Stati Uniti c'è l'esempio più eclatante, che è quello di kickstarter.com, dove i progetti creativi soprattutto, ma non solo, possono essere finanziati dalle fonti più varie, dove anche un singolo dollaro vale, se lo moltiplichi per 1000, così come può valere naturalmente l'intervento di una private equity, eccetera. In Italia c'è stato un progetto forse un po' più piccolo, ma abbastanza interessante, quello di Capipal, che sentiamo nella voce di Alberto Falossi. Capipal è un sito per raccogliere soldi su internet, per qualsiasi motivo, un compleanno, lista nozze, beneficenza, progetto, acquisto di gruppo, non ci sono limiti. Però facciamo un passo indietro, che cos'è il crowdfunding? Parola un po' strana in italiano. Il crowdfunding è quando si raccoglie una certa somma, un finanziamento, tramite tante piccole donazioni di utenti connessi su internet. L'unione fa la forza. Fino ad oggi il crowdfunding era utilizzato prevalentemente per la beneficenza o per progetti importanti, e questo secondo me era un po' una limitazione. Capipal fa anche questo, ma permette anche una sorta di personal crowdfunding, di crowdfunding privato, la raccolta soldi per scopi puramente personali, che ne so, il compleanno o la lista di nozze appunto. si va sul sito, si scrive quanto si vuole raccogliere, viene creata una pagina di raccolta e si passa il link agli amici e ai contatti. E ognuno poi può, con un click, donare la propria quota. Si possono impostare donazioni libere oppure delle quote fisse. Quando nasce Capipal? Capipal nasce nella primavera del 2009 e la beta pubblica va online nel luglio dello stesso anno. Con quali obiettivi? L'obiettivo di Capipal è permettere a chiunque di raccogliere soldi, di raccogliere una certa somma su internet tramite la carta di credito. È anche pensato per essere facilmente diffuso e utilizzato nei vari blog e nei social network. Ce n'è veramente bisogno? In alcuni casi io credo di sì. Pensate ad esempio appunto alla lista nozze, in cui gli invitati sono sparsi per l'Italia o in alcuni casi addirittura all'estero. Vabbè, insomma, questo l'abbiamo dovuto tagliare perché siamo un po' nel finale della trasmissione. Era un esempio di crowdfunding all'italiana. Tu, Nicola, sai come stanno andando questi progetti di finanziamento distribuito negli Stati Uniti, per esempio? Sono sempre più popolari e adesso la SEC, quindi diciamo la Consob americana, esattamente, diciamo. sta sdoganando il fatto che si possa finanziare una startup in questo modo, mentre prima era proibito. Perché poi c'è il problema sempre di, specialmente se sono basati su carta di credito, di essere sicuri che i soldi vadano nelle mani giuste, no? Che insomma sembra un problema epocale, ma in realtà allora con la stessa logica in passato non avrebbero neanche inventato il bancomat. Ma guarda, in realtà tutti questi sistemi in cui poi noi ci poniamo il problema della truffa, la truffa diventa un fenomeno tutto sommato marginale, diciamo, di queste cose. Probabilmente ogni sistema ha una quota di devianza, però in realtà la verità è che la stragrande maggioranza delle persone che partecipano a un sistema è brava gente. Tutto sommato, se vuoi, anche, voglio dire, ante litteram, il sistema del microcredito ai contadini in India piuttosto, sì, che in Sud America, insomma, no, si basa anche sul meccanismo che poi le persone hanno una onorabilità, ecco. E quindi, come dire, certo, l'onorabilità la banca non la riesce a misurare, no, in qualche modo. Quindi. Ecco, mentre invece noi discettiamo dottamente di crowdfunding, ovviamente Luca, che si occupa come al solito di trovare la verità nell'informazione distribuita nelle folle, ha scovato il servizio di crowdsourcing delle notizie. Intanto voglio tranquillizzare, la verità non esiste, insomma, nel senso, meno male. Cioè, ecco, no, voglio dire, no, però ecco, un esempio potrebbe essere Spot Us, no? Spot.us, che è questo sistema molto ingegnoso inventato negli Stati Uniti, questo sito che permette ai giornalisti o giornalisti in erba o wannabe giornalisti, insomma a chiunque voglia approfondire, naturalmente ci vuole metodo, ci vuole un minimo di competenza, di portare avanti il proprio progetto di inchiesta, forse probabilmente si incentra tutto molto sulle inchieste, facendosi finanziare dagli stessi lettori, quindi gli stessi lettori in anticipo danno dei soldi, danno la possibilità, raccolgono dei fondi in modo tale che poi il giornalista possa sviluppare quella storia. Ed è per esempio un esempio di giornalismo che comunque diventa in questo punto indipendente dagli editori, certo, non certo. Più puri. Che succede? Ma intanto lasciami dire, succede che si rompe forse questo meccanismo. È bello che se tu che fai la domanda io rispondo. Questa potrebbe essere un'anticipazione dell'anno prossimo. Comunque no, molto tutti contro Paolini. Tutti. No, cioè secondo me quello che succede è che quell'elemento fideistico per cui tu paghi un euro per comprare un oggetto stampato su carta, che poi è il grosso della spesa, no? Come sappiamo, che tu sfogli e lì dentro sai che siccome è stampato su quella carta con quel carattere ti ci ritrovi, cioè quella sequenza eccetera, sei sicuro che a un certo punto ci sarà l'inchiesta, e l'inchiesta è linea di massima, risponde al tuo feeling, alla tua visione del mondo, anche se in realtà non ti fa pensare con la tua testa granché, no? Ecco, invece questo meccanismo, con tutti i suoi limiti, quello di spot.us, rompe il meccanismo, perché tu intanto non è che paghi un euro per aprire la pagina del portale di spot.us, tu se vedi che c'è un'inchiesta che sta crescendo, che sta tirando fuori cose interessanti, quindi già c'è un elemento di valutazione, sarebbero un po' le stellette che piacciono tanto a Brunetta, no? A quel punto dici no, voglio sapere come va a finire, paghi e in qualche modo l'inchiesta arriva al termine. Nicola, minaccia per il giornalismo? No, è giornalismo questo. Ecco, benissimo. Questo sarebbe il giornalismo, diciamo, sai, io mi ricordo, c'erano alcuni film in bianco e nero, mi sembra con Doris Day, in cui c'era questa roba appunto che il giornalista era quello che faceva le inchieste. Sì, che no? Poi non ho mai capito questo biglietto che avevano sui cappelli i giornalisti nei film. Neanch'io, con Doris Day. Con scritto press, forse era perché sostituiva il tesserino, da noi non serve. Che... Ok, ma vabbè, comunque... È il giornalismo, secondo me, nella sua espressione più bella. Poi oggi, purtroppo, gran parte del giornalismo, è, soprattutto poi di quello politico, eccetera, è... un giornalismo o asservito a logiche di potere oppure è un giornalismo asservito a logiche commerciali, una grandissima parte, salvo meritorie ovviamente eccezioni, ma insomma eccezioni appunto. Allora, come avrete capito dalla musica di Mark Johnson, che è la nostra sigla di chiusura, vi lascio una battuta finale per, diciamo così, chiudere il discorso sul crowdsourcing. Intanto quanto tempo ci vuole di norma perché tutto questo diventi una pratica comune, e soprattutto quanto è importante questa definizione, perché forse in realtà il fatto che molta gente su internet già sta attingendo, no, a questo fenomeno, prescindere dal fatto di conoscere come si chiama e quali sono i limiti, Luca. Sì, e probabilmente stiamo facendo crowd qualsiasi cosa da molti anni e non ce ne accorgiamo moltissimo. I tempi, quali sono i tempi? Comunque, come tutti questi meccanismi culturali, sono molto lenti in realtà, quindi molto più lenti di quello che noi possiamo osservare e in cui vediamo anche nei cambiamenti tecnologici. Però diciamo che poi questa cosa può nel prossimo futuro portare dei cambiamenti improvvisi, ecco. Quindi lentamente si arriva a un certo punto e poi c'è uno stacco, come i terremoti. Il punto critico, come direbbe Malcolm Gladwell, mi pare che ha scritto un libro su questo tema. Io dovrò tagliare la tua battuta finale, Nicola, perché siamo in chiusura. Ricordo il tuo blog comunque per seguirti, blog.nicolamattina.it, mentre quello di Luca Lagna è www.stilografico.com. Ricordo a tutti gli ascoltatori che le puntate precedenti, non solo questa, di Conversational si possono scaricare dal sito, dal blog, diciamo, della trasmissione www.conversational.it. Ringrazio tutti per l'ascolto, ringrazio gli ospiti e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti.